Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Riprendiamo un filo che abbiamo lasciato l'altra settimana. Stiamo facendo degli esperimenti a tempo reale in questa trasmissione. Proviamo una volta tanto, almeno una volta a settimana, finché voi ci seguirete, finché a voi vi andrà di contribuire a questa nostra idea, a portare un esempio concreto, una storia vissuta sulla pelle. La settimana passata parlammo di una ragazza che era stata adottata e da lì vennero fuori tutta una serie di storie nel variegato mondo della soggettiva, del punto di vista personale, individuale, di chi a un certo punto, presto, tardi, precocemente, in età avanzata, apprende che i propri genitori non sono quelli con cui ha vissuto, che ha sempre chiamato papà e mamma, ma i propri genitori, diciamo, genetici, sono altre persone. E si stabiliscono altri tipi di rapporti, altri tipi di domande. Oggi con la stessa formula vi portiamo un caso, il caso di un uomo separato, che esce dalla famiglia. Voi direte, una cosa normalissima, oggi tutti si lasciano, i matrimoni hanno un inizio, hanno una fine, sì. Ma cosa accade a un uomo quando si separa, quando deve affrontare anche da un punto di vista legale, giuridico, gli oneri che derivano dal fatto che si era preso un impegno? Ma può essere una cosa che è abbastanza liscia, fermo restando un problema di tipo emotivo, di tipo affettivo, di tipo personale, bene o male è la storia di un fallimento, o può cominciare ad essere l'inizio di una tragedia, l'inizio di una dissoluzione totale, la fine di un'idea, anche seppur ottimistica, di vita dignitosa. Voi direte, questo è molto diffuso, ne abbiamo parlato più volte con avvocati matrimonialisti, ne abbiamo parlato con persone esperte alla materia, non abbiamo mai dedicato tutta una puntata a un uomo che racconta il suo punto di vista, di uomo che decide, per ragioni che poi lui ci racconterà, di interrompere il suo cammino familiare, coniugale, matrimoniale, e per lui comincia qualcosa di molto particolare. Viviamo, abbiamo detto più volte, in un regime confessionale rispetto all'unione matrimoniale, anche se è un patto di tipo civile con degli oneri e degli obblighi di tipo civile, alla base c'è sempre l'idea che ci sia un principio superiore che vuole che questa unione sia eterna. Il punto di partenza che deve essere eterna. Se tu decidi che non debba essere eterna, comunque devi pagare una sorta di scotto verso l'assoluto. Che poi questo sia applicabile anche in termini laici a delle leggi che in qualche maniera giustamente regolano la sopravvivenza, la sussistenza, il mantenimento in vita di una famiglia, quando il capostipite, o perlomeno la prima ragione di sostentamento di questa famiglia, decide di andarsene, di fare un'altra cosa, è giusto, ma che debba rimanere una sorta di espiazione totale, quasi una nemesi rispetto alla persona che decide di fare questo passo, beh, forse sarebbe da discutere. Tutto questo comunque rimane in linea teorica finché non ci sarà qualcuno che ci racconterà quello che veramente accade. Tra un po' sentirete la testimonianza di Giorgio. Giorgio, naturalmente un nome di fantasia, Giorgio è un professionista che si è trovato la vita totalmente stravolta, cambiata, in una serie di episodi che hanno giorno per giorno determinato sempre di più la sua uscita dall'idea di una vita accettabile. Vorrei sapere quante persone che ci ascoltano sono passati per la stessa esperienza o passano per la stessa esperienza, quanti uomini sono stati rovinati dall'idea di interrompere il loro rapporto matrimoniale. 800 24 00 24, tra poco la storia di Giorgio e spero anche le vostre integrazioni. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, oggi parliamo del punto di vista maschile, di quello che accade in maniera rovinosa. Naturalmente le circostanze tranquille non vogliamo saperle oggi, vogliamo sapere quello che accade dal punto di vista della perdita di ogni serenità a un uomo quando decide di interrompere il suo rapporto familiare. A testimoniarci la sua esperienza è Giorgio. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quanto tempo è rimasto sposato lei? Allora, circa 9 anni. E quando si è sposato era una storia regolare, una storia d'amore, una storia di affetto? Sì, sì, preceduta da un lungo fidanzamento e ovviamente storia basata sul sentimento, fiducia, stima. Cioè voleva bene a sua moglie lei, sì, l'ha sposata perché le voleva bene. Anche reciprocamente, nel senso. Anche quello che ne sa, è quello che ne sa, è una sua ipotesi, pensava che le volesse bene. Pensavo questo, sì. Tutti noi giochiamo sull'illusione che qualcuno ci voglia bene e speriamo che, di investire il nostro affetto in qualcuno che lo ricambi. Quando invece c'è stato il primo sintomo che in realtà c'era qualcosa che non funzionava? Beh, il primo sintomo, nel senso, è stata una scoperta, nel senso ho scoperto che lei aveva un'altra relazione stabile in un altro luogo d'Italia e conviveva nei fine settimana con un'altra persona. Quindi era apparente un caso di quasi bigamia da parte della signora? Sì, una bigamia diciamo anomala, nel senso 5 giorni col marito e 2 giorni con l'amante. Di solito succede il contrario, gli uomini hanno l'amante in un'altra città, quelli che vivono in un'altra città, che hanno dei lavori che li portano... Sì, cioè, viene fuori questa cosa che si sta un po' in famiglia, uno pensa avere 2 famiglie. Nel frattempo avete avuto figli in questi anni che siete stati assieme? Sì. E quanti anni hanno i figli? Attualmente 12 e 7. E quando vi siete lasciati quanti anni avevano? Quando c'è stata la separazione è stato 4 anni fa. Quindi erano ancora piccoli, diciamo. Sì. Erano piccolini. Lei quando si è accorto di questo fatto, come se ne è accorto? Che c'era qualcosa che non era proprio come immaginava lei? Ma come si dice in questi casi, l'ultimo a saperlo è proprio il marito. È successo, no? O anche la moglie, adesso siamo... Certo. E com'è se ne è accorto? Gliel'ha detto qualcuno? Me l'ha riferito qualcuno a cui non ho creduto. È andato a vedere le carte e ha scoperto. Sì, ed è stata una triste scoperta, soprattutto del tutto in attesa e addirittura da me esclusa in prima battuta. Ero io il primo. C'è stato un chiarimento tra voi? Cioè lei ha domandato, è vera questa storia? Un tentativo di colloquio, ma poi è iniziata una guerra giudiziaria. Quindi subito, non vi siete mai, lei non ha detto ma perché mi hai fatto questo, le cose si dicono, le solite cose che non serve a nulla ma che si dicono. No, era già stato tutto preparato per la mia scoperta. Ah, quindi lei pensa che fosse volutamente, come dice la miglior letteratura, uno fa scoprire l'amante che vuole che sia il motivo scatenante della fine, così? No, nel senso che in vista della scoperta si era già organizzato tutto in maniera tale da... trovare soluzioni. Il primo cambiamento qual è stato nella sua vita? Lei ha scoperto, ha comunicato la sua scoperta e cosa è accaduto il giorno dopo? È iniziata proprio una guerra giudiziaria molto pesante. Ma non siete usciti? Uno è uscito di casa, chi è uscito di casa di voi due? Ah no, certo sono uscito io. Di casa sono uscito io su ovviamente ordine del giudice. Ma ripeto, era già stato tutto programmato e precostituito, per siccome era lei tra virgolette dalla parte del torto in quanto sorpresa appunto in questa diciamo l'atto adulterino era compiuto da parte della signora in quel caso, esatto. Quindi doveva essere lei in linea di massa essere la parte lesa, o sbaglio? Esattamente, però appunto aveva già preparato il tutto. Ma mi faccia capire meglio, che vuol dire preparato il tutto? E preparato le carte, preparato cosa dire, preparato come agire. Cioè ha negato l'evidenza del fatto? Sì, ha negato l'evidenza del fatto a fronte di fotografie che documentavano la relazione dicendo che era ospite da un amico. Ah beh, sarà una persona previdente. Devo dire, c'è chi lo fa in maniera sventata, chi lo fa in maniera previdente. Ha trovato una professionista, su questo ci sta. A questo punto lei cosa ha fatto? È sceso a patti dicendo vabbè ho capito, brava, oppure è entrato nella battaglia? No, sono stato indotto ad entrare in una battaglia perché arrivavano lettere, comunicazioni, diffide e quant'altro, quindi necessariamente mi dovevo difendere pure io, anche perché... Può alzare un po' la voce, Giorgio, perché vedo un messaggio che sente poco la sua voce. Certo, alzo subito la voce. No, dicevo che è iniziata una guerra giudiziaria e chiaramente fatta di carte, di ricorsi, di istanze e ovviamente ero io, che inizialmente ero vittima, a dovermi difendere. E questo è il primo passo. Quindi ha scatenato un'offensiva, la signora ha scatenato un'offensiva, diciamo, forse sì, era tutto preparato perché il rapporto per lei era già finito, voleva uscire. Tanto preparato che per esempio era già stato prelevato tutte le somme che c'erano nel conto corrente, per esempio. Ah, quindi diciamo c'era un'operazione. Lei è stato. Allora, fermiamoci solo un secondo. 800240024. Giorgio sta raccontando la sua storia. È una storia molto particolare, se no non la racconteremmo. Normalmente queste cose avvengono fra, non voglio dire dilettanti, ma non ci sono dei professionisti dell'interruzione matrimoniale che agiscono in maniera così circostanziata. Non voglio entrare nei particolari della vita personale di Giorgio, però posso dire che è una persona che sapeva il fatto suo, indubbiamente, ha agito per tutelare quelli che lei pensava fossero i suoi interessi, quindi ha agito nella maniera più drastica e più professionalmente perfetta nei confronti dell'ex marito, perché quando si entra in guerra con una persona con cui si è avuto una storia d'amore non esistono le mezze misure, non esistono i patti, non esiste una possibilità di incontro, ci si fa soltanto male. Cherubino, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo raccontare, dottor Nicoletti, la mia storia. La racconti? Pronto? Sì, l'ascolto. Niente, io sono separato, ho una mia donna, avevo sposato una donna rumena perché era nato un bambino e dopo appesa la cittadinanza italiana la parola più bella mi diceva una parolaccia. E mi ha portato in tribunale, ma la vera vergogna è che mi sta rovinando il mio avvocato di fiducia, che mi ha fatto un conto di mi ha lasciato dall'incarico, la separazione è andata avanti da sola un anno e mezzo, io non ho potuto più prendere avvocati perché non posso pagare, il mio avvocato di fiducia mi diceva lei è ben accetto in questo ufficio e nonostante tutto mi aveva chiesto della separazione da 3.000 a 3.500 euro, questo avvocato mi ha lasciato dall'incarico, è stata 3 volte in tribunale, la terza volta dice non importa che venga, poi mi chiama nel suo ufficio e mi guarda al computer e mi dice guarda i psicologi reclamano 4.000 euro una e 4.000 euro un'altra che una mi aveva... Erano dei periti di parte, diciamo, dei periti di parte, c'ha le loro parcelle. Mi aveva mandato questa mia avvocata. Nello stesso tempo mi fa, guardi, pagato 3.500, pagato tutte le spese, più mi ha voluto affittare una casa lei per pernottare col mio bambino perché a me mi avevano buttato fuori casa e il mio bambino mi ha affittato questa casa che ho pagato 7.000 euro, 700 euro al mese. Faccia la sintesi, allora Cherubino, dormire solo 3 volte. Che situazione sta adesso? Alla fine, mi scusi dottor Nicoletti, sì, mi faccia raccontare, sì, sì, alla fine di tutto lei mi lascia dall'incarico e quando vado nel suo ufficio mi dà una busta, ha pagato la casa, ha pagato 3.500 euro e tutte le altre spese, solo per parlare 400, per scrivere una lettera 700 e niente, a un certo punto mi mette sulla scrivania una busta, dice questo è il suo conto, il piatto piange, vi ho voluto bene. Dopo io vado via e dopo una settimana quant'era il conto? Una busta verde alla posta e c'era 24.000 euro, mi lascia dall'incarico e questi soldi li voleva entro 7 giorni, mi pignora la banca, non avevo soldi, il direttore mi chiama, dice ma che sta succedendo? Niente, non fa più movimenti in questo conto. Dopo un po' arriva un altro decreto ingiuntivo per 35.000 euro, mi pignoro una... Vabbè, Cherubino, dammi un centaglio, ho capito, in questo momento lei è doppiamente preso, questo è però l'avvocato da tutelare i suoi interessi, non voglio nemmeno pensare cosa le veniva dall'avvocato che tutelava gli interessi della sua ex moglie, mi sembra più vittima degli avvocati che della moglie a questo punto, però sa com'è, gli avvocati non è che lavorano nel buio, se uno va da un avvocato può chiedere prima quale sia la parcella o rendersene conto, e mi rendo conto che non è una cosa facile da sopportare. Cherubino, lei c'ha un nome che mi dispiace dirlo che la porterà a darsi una ragione anche di questo. Filippo, buongiorno. Buongiorno. Non so cosa dirgli, non mi considerate spietato, ma potreste sentire la lista delle spese dell'avvocato a Cherubino. La rumena se l'è sposata lui, la rumena l'ha lasciata lui, si è lasciato lui con la rumena e l'avvocato fa il suo mestiere e chiede le sue parcelle. Filippo, buongiorno. Buongiorno, io non sto lì a raccontare la storia perché so che avete tanti interventi da fare. Il punto è che io quello che non capisco è perché quando è la moglie a sbagliare... E non... Solo, scusi, non voglio commenti. Lei ha una storia da raccontare, sua? Ma la mia storia è un po' come le altre. Praticamente la moglie tutto un giorno si è svegliata dicendo che si è innamorata di un altro. E succede, questo succede, ci sta. E sono cose che succedono. Quello che non capisco, può fargli io, una colpa. Esatto, ma quello che non capisco io è perché poi debba essere sempre l'uomo a dover pagare anche le colpe della donna. Non è le colpe, perché abbiamo un diritto molto che tutela molto la parte femminile del matrimonio, considerato la parte più debole, probabilmente basandosi su parametri sorpassati in cui le donne non lavoravano, le donne erano più... E quindi l'uomo sa che quando si sposa, lo sappia in partenza, si prende una patata bollente che comunque sia, il giorno che se ne vuole in qualche maniera separare, lo pagherà a prezzo altissimo. Giorgio, torniamo a lei, una battuta. In questo momento lei in che situazione sta? Ecco, io volevo appunto sottolineare che la mia non è una storia come le altre. E se no la chiameremmo qua, apriremmo il telefono. E qual è? Mi dica un attimo, Giorgio, scusi, abbiamo un minuto, poi devo dare la linea, poi riprendiamo con lei lungamente. Qual è il punto più profondo di separazione della sua esperienza da quelle che ha appena sentito? La parte drastica, la parte biblica. Certo, diversamente dagli altri padri o mariti, mi è capitato di perdere tutti i diritti civili e politici. Vuol dire non c'è più la libertà personale, non ci sono più i documenti di identità. Cioè lei nemmeno può votare volendo? No, neppure il diritto di voto. Come avesse fatto un reato? Come avesse compiuto un reato? Sì, esatto, come se ci fosse una condanna penale. Ma può andare all'estero in vacanza lei? No, perché non ho i documenti e non ho il passaporto. Può aprire un'attività commerciale? No, perché senza documenti non posso aprire nessuna attività e non posso fare nessun contratto. Lei è un sampapie come un immigrato che arriva col barcone, peggio anche. Ma peggio, perché i migranti hanno quantomeno il diritto di migrare, io no. Fermiamoci un istante, Giorgio prenda fiato, 800 24 00 24, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, stiamo raccontando con Giorgio la storia della sua vita. Un uomo che ha interrotto il matrimonio e questo ha determinato la sua morte civile. Non ha più diritti civili, non può votare, non può espatriare, ha bloccato il suo conto in banca, insomma vive una brutta vita. Stanno chiamando anche altri ascoltatori portando loro storie, perché non vogliamo dimostrare nulla, vogliamo semplicemente portare un contributo in più per comprendere quando in realtà il diritto matrimoniale determina anche queste situazioni. Non voglio dire che gli uomini siano tutti da assolvere, non voglio dire che in realtà ci siano delle colpe distribuite in maniera non equanime, però questo è un dato di fatto. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Allora, premetto che io, diciamo, professionalmente ho un know-how particolare con la giustizia. Però la mia... Perché è un pregiudicato o un avvocato? Che vuol dire? No, né uno né l'altro. Faccio il consulente. Ah, il consulente. Nel penale. Quindi sa il fatto suo anche lei. Benissimo. Allora, 20 anni fa ho capito che mia moglie non si comportava bene. Vabbè, succede. Chiaramente mi sono creato tutte le prove del caso. Ci siamo separati, ho accettato solo di dare il mantenimento al nostro unico figlio. E l'ho dato per tutti questi 20 anni. Quindi lei, scusi un attimo, lei ha agito freddamente. Prima ancora di far vedere che aveva capito, si è procurata tutti gli elementi. Sì, ho fatto finta di partire, invece sono andato a un hotel a 5 chilometri, ho sistemato la casa con tutte le micro telecamere, eccetera. Beh, fatto, eccetera. Sì. Poi? Ho fatto un lavoro di questo genere. Ma si può fare questo? Sì, lei perché è consulente lo può fare? Oppure... No, io lo posso fare. Non è contro la legge fare delle intercettazioni ambientali a casa propria? No, casa mia no, anche specialmente se c'è un cartello che dice che ci sono le telecamere. Ah, ecco. Quindi sua moglie consumava, diciamo, l'atto adulterino lussurioso dentro casa sua, nel talamo matrimoniale? Ci ha provato, sono arrivato 2 ore prima e l'ho bruciata, però avevo tutto. Come l'ho bruciata? Gli dato fuoco? Perché ho fatto finta di... No, bruciata nel senso non è riuscita a fare quello che voleva fare. Però era pronta, era nell'atto incipiente. Esatto. Vabbè, comunque ci siamo separati. Cioè lei l'ha colti sul fatto che erano lì a casa? No, io praticamente nel frattempo che lei si organizzava con le amiche per fare la serata, Beh, che c'era di male? Una serata con le amiche, mica adulterio. No, con le amiche, ma avevo organizzato anche di rimanere dopo solo a casa con questa persona. Ah, lei invita cinque amiche e un amico, poi le amiche se ne vanno complici e rimane con la persona. Bene. Quando le amiche una perfetta copertura. Sono arrivato io a casa. Una perfetta copertura comunque. Però la cosa importante è sul fatto dei denari. Mm. Cioè, nel senso che poi quando io sono andato per chiedere il divorzio 3 anni fa, lei ha cominciato a battere a denari. Eh beh, certo. Oh. Allora lì ho gestito io il mio avvocato. La spada aveva già dato, è chiaro. Ho gestito io il mio avvocato, gli ho detto come doveva fare. A un certo punto lei a luglio mi dice: guarda che io vado 2 mesi in vacanza da mia madre, parto il 1° di agosto e rientro a fine settembre. Io ho detto va bene, ma poi è parlato con il tuo avvocato, mi dice lei, per la situazione. Ho detto guarda, sta fuori anche lui per le vacanze, le cose, a settembre, quando rientri, a fine settembre, vi sentite e vi mettete d'accordo. Comunque avete un rapporto sereno, mi sembra, se parlavate. No, scaltro da parte mia e lei me la mantenevo io serena, cioè nel senso che gli facevo chiedere sì, ok, non ti preoccupare. Vabbè, lei continua a fare il suo mestiere per tenere. Esatto. Allora, quindi? Che succede? Il 29 di luglio... Ma siate sintetici, non voglio sapere tutti i particolari, faccia una sintesi. Ho mandato, questo è un punto particolare, perché ho mandato, il giorno prima che lei partisse per le vacanze, la raccomandata per la citazione in tribunale. Fatto compiuta giacenza, dopo 15 giorni, è stata posta alla casa comunale, lei non ha saputo nulla, non si è presentata in udienza, il giudice ha stabilito il divorzio. Lei conosce tutte, diciamo, le pieghe del diritto, si è mosso bene. Questo però dimostra che se scatta questa guerra vince chi ha un'intelligence abbastanza forte, chi ha degli strumenti per poterla portare avanti la guerra. Giorgio, anche lei è trovato di fronte probabilmente una persona che conosceva il fatto suo, una professionista. Logicamente uno è sprovveduto, ma è chiaro, se una persona conosce bene il diritto, conosce la materia, conosce la fattispecie, è logico se è mossa bene. Mi spiega però bene come mai lei è trovato in una condizione di così estremo svantaggio. Lei cosa aveva fatto di male oggettivamente? No, e il punto è questo, che io, diciamo, non avevo fatto nulla di male se non appunto subire questa separazione. Ma il diritto, per quanto possa essere favorevole alle donne, qualcosa dovrà aver fatto, perché se no trovarsi in una situazione come la sua senza aver fatto nulla sembra veramente paradossale. Invece è proprio questo il paradosso, che non avendo fatto nulla hanno infierito a più non posso, e c'è stata quella che lei ha chiamato prima la nemesi ma giudiziaria. Perché, ripeto, per arrivare a questo è stato organizzato e orchestrato tutta una strategia. Ma lei di cosa è accusato? Di cosa è stato accusato? Cioè, perché gli si tolgano i diritti civili? Una persona deve avere un'accusa di qualcosa. No, ma appunto non c'è nessuna condanna. Ma come fa a passare dalla parte del torto senza aver fatto nulla? Perché, ripeto, prima viene disposta una consulenza tecnica con dei periti che sono ovviamente la longa manus. Vabbè, e cosa dicono i periti? E dicono non è capace come genitore. Come genitore non è capace. Quindi i figli diventano il terreno di scontro. Si lavora sui figli. Le tolgono i figli. Punto. Poi, siccome lo stipendio all'epoca era di 1.800, si stabilisce un mantenimento superiore di 2.500, in maniera tale che uno sia inadempiente. No? Ma scusi, ma uno può dare più soldi di quelli che ha? No, matematicamente è impossibile. Secondo invece i giudici sarebbe possibile, perché i giudici dicono non conta il reddito, conta le potenzialità reddituali. Quindi uno potrebbe anche avere le capacità per essere amministratore delegato della Fiat, allora va correlato a quello. Il reddito. Onestamente le hanno fatto un culo che non esiste nemmeno, non ha mai esistito. Con 1.800 dovevo 2.500. Cioè lei aveva delle potenzialità, diciamo, poteva rendere di più, se lei avesse lavorato di più avrebbe guadagnato di più. No, sì, esattamente. Dice talmente bravo che se vuole se li guadagna, questo dicevano. Esattamente. E comunque ha i genitori alle spalle che lo possono finanziare, può chiedere prestiti in banca, quindi perché dare un mantenimento correlato allo stipendio? Ovviamente sono stato condannato a una somma superiore allo stipendio. E i figli invece, che lavoro è stato fatto sui figli? Sui figli c'è stata quella che si chiama oggi, anche se i giudici non ne vogliono sentire parlare, alienazione parentale, cioè l'allontanamento progressivo dei figli da una delle due figure genitoriali. Ma uno lo fa se uno compie dei reati, se una persona è un danno per i figli. Lei cosa ha fatto di male ai suoi figli per essere allontanato? No, nulla, anzi ho cercato di vederli, ma per esempio anche ultimamente non riesco a vederli perché cosa fanno i giudici? Affidano i bimbi, i figli ai servizi sociali e i servizi sociali negano qualunque contatto tra il genitore e il figlio. Beh, qual è la motivazione? Cosa potrebbe far di male ai suoi figli? No, non c'è motivazione. La motivazione è solo la conflittualità giudiziale. Ma è vero che lei non può nemmeno battezzarli, vuole battezzarli e non può? Devo chiedere l'autorizzazione. Beh, ormai sono grandi, perché non l'avete battezzati prima? Adesso gli viene in mente di battezzarli? Perché mentre decidevamo di farlo è iniziata la separazione della piccola, ovviamente. Perché l'ex moglie, diciamo, è non credente, non ritiene giusto? No, è credente, non è un problema di autorizzazione da parte degli organi competenti, quindi tutto ciò che riguarda i figli deve passare da un organo terzo del comune di Roma. E quindi non se ne esce più con i tempi e la burocrazia, è una cosa terribile. No. E poi soprattutto, ripeto, c'è anche il problema dello stipendio, perché è stato ordinato al datore di lavoro non di pagare il lavoratore, ma di pagare il coniuge del lavoratore. Sì, ma capisco, ma se lei ne guadagna 1.500 e deve darne 2.500, lei ogni mese c'ha un meno 1.000 euro di stipendio? Sì, esatto, accumulo debiti ogni mese, esattamente. Cioè lei ha uno stipendio negativo, è come se lei dovesse pagare il suo datore di lavoro. In questo momento è zero e potenzialmente è negativo, solo che diciamo che non si è arrivati ancora all'obbligo di dover pagare il datore di lavoro. Ma lei quant'è di scoperto? Quant'è di scoperto nei confronti dell'ex moglie? Quanto dovrebbe darle? Allora, ad oggi si è accumulato un debito di 20.000 euro, ma ai 20.000 vanno aggiunte spese, interessi e ogni mese aumenta. Ma lei con questi soldi da dove li tira fuori se non lavora più? Se lavora con uno stipendio? Il mio stipendio è di 1.800 euro al mese. Lei è un professionista, diciamo, uno stipendiato, ma un professionista, per capirmi. No, un dipendente di un ente. Ma le converrebbe non lavorare più a questo punto? Però se io non lavorassi più, evidentemente mi sottrarrei agli obblighi. Ma se uno non ha nulla, se in questo momento lei fosse nulla tenente, come penso che in parte sia diventato, fosse licenziato, cosa le potrebbero tirare fuori? Mica la posso mandare ai lavori forzati? Ma io sono già ai lavori forzati, perché il mio stipendio a fine mese non arriva, ma non perché sono disoccupato, ma perché viene fatto un bonifico dell'intero stipendio, non al dipendente, ripeto, ma alla moglie del dipendente. Che impressione fa andare a lavorare la mattina sapendo che si lavora per una persona con la quale non ha più nessun tipo di legame affettivo, anzi, che in qualche maniera sta determinando la sua infelicità? Sì, soprattutto è difficile trovare le forze per lavorare, perché uno sa che a fine mese comunque non vedrà niente. Ma lei di che vive allora? Vivo dell'aiuto di parenti e amici. Non lo dica, perché se sentono dire questo, infatti, anche questo diventa un motivo. Se dovessi dire questo direbbero: bene, se finora hai fatto così continuerai ad avvalerti degli aiuti. Se c'è parenti che ti aiutano, quindi è giusto che tu sia così, diventi una macchina di mantenimento. Sì. Se mai fatto una domanda però, perché tanto odio? Perché è veramente al di sopra, anche un matrimonio che va male, a un certo punto uno se ne fa una ragione. Perché un odio così, è un odio a vita, la sua è una condanna a vita, lei sembra una condanna ai lavori forzati a vita, perché non finirà mai questa storia, i figli sono piccoli. Cosa ha fatto lei di male a questa donna perché alla fine si prendesse una vendetta così potente e così biblica, secondo lei? Allora, è giusto spiegare la circostanza che forse illumina su tutte le ragioni. La moglie svolge un lavoro che è quello di magistrato. Ma questo non implica il fatto che ce l'abbia tanto con lei. Sì, conoscerà meglio la legge, quindi giustamente sì, si muove meglio di lei, che discorsi. Ma si muove sempre nelle maglie della legge, quindi cosa le ha fatto lei perché sia così? No, io ho semplicemente sorpreso lei e quindi scoperto la storia parallela. Quindi non ha ammesso che lei prendesse questo diritto di scoprire la sua storia parallela, questo la giustifica così? Sì, lei dalla parte del torto ha dovuto sferrare attacchi e ovviamente la volontà è solo distruttiva. Ma lei non ha mai pensato di dire, io non so, nei suoi panni avrei fatto io, lì cosa avrei fatto io, poi ci fermiamo un attimo. Avrei detto: cara moglie, ho capito, mi stai... lasciami in pace, tutto quello che ti posso dare ti do, non ti farò mai colpa del fatto che tu mai sei stata adultera, mai portato, però chiudiamola, che me vuoi, morto, che ci fai quando sono morto? Cioè è assurdo, perché quando le muore, però che se ne fa più? Offrire, più che offrire l'intero stipendio io non posso fare, lei non si accontenta dell'intero stipendio. E cos'altro vuole? Vuole che i figli si allontanino dal padre. Vuole che io non circoli liberamente, quindi mi ha tolto lei. E quindi però vede che è una vendetta totale, radicale, va oltre l'aspetto matrimoniale. Da vendetta, diciamo, individuale è diventata poi vendetta giudiziale. Oh, si fermi un attimo, prenda respiro. 800 24 00 24, a tra un poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24. Giorgio, solo una domanda, mi scrive un ascoltatore: state raccontando un sacco di cazzate, non possono stabilire un mantenimento maggiore dello stipendio, come risponde? Che così è avvenuto per quella ragione, contano le potenzialità reddituali e non il reddito effettivo. Comunque Giorgio, se l'ascoltatore avesse dei dubbi, la metto in contatto, gli produce le carte. Non ho motivo di dubitare quello che dice Giorgio, che motivo avrebbe dirmi una cosa non vera? Va benissimo, evidentemente c'è una maniera, chi conosce bene il diritto sa interpretare il diritto lo sapete è qualcosa di molto elastico, interpretativo comunque. Sto alla maniera, una potenzialità reddituale, potrebbero dire: Giorgio non ha voglia di lavorare per fare un dispetto alla moglie, se volesse potrebbe prendersi e quindi deve darglieli. E se la sentenza è questo, è questo. Sentiamo Anna. Anna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì. Io volevo dare il mio punto di vista da donna. Sì. Ti ho tradito e sono stata tradita. Va bene. E sono un po' scettica su quello che sta dicendo Giorgio. Perché? Perché una donna che tradisce ha dei sensi di colpa pazzeschi. Amica, tutte. Anna, non è può generalizzare, scusi. Grazie a Dio ci sono donne che tradiscono senza sensi di colpa, scusi. Non lo so. Non, ma glielo assicuro, guardi, meglio posso dire, ne ho conosciute tante, scusi, ma che uno sente i racconti delle persone, non è che oggi, anzi, non mi sembra che i sensi di colpa siano così tenaci, capito? Le appartiene a un'altra generazione. Se solo questo è il motivo della sua titubanza a credere, mi sembra un po' limitato, sinceramente. No, il secondo motivo è il fatto che anch'io sono andata attraverso un divorzio molto doloroso, in cui ero stata tradita in quel caso. E mi sembra strano che si vengano addirittura non avere i documenti. Un giudice cerca sempre di conciliare con tutto, che io ripeto ero stata tradita. Sì, però l'ha spiegato Giorgio, ha detto la sua ex moglie, conoscendo bene la legge e il diritto, si è tutelata. Ma, non è che era una sprovveduta. Perché lo odia tanto? Questo l'ho domandato tantissimo per fare una cosa ma ci sta, gli esseri umani si odiano, Anna, gli esseri umani si odiano, si fanno a pezzi con la motosega, si bruciano vivi, l'odio fra gli esseri umani non esorcizziamo, non esiste, ognuno poi applica la sua maniera di disprezzare una persona con gli strumenti che ha in mano. Un serial killer uccide una moglie che vuole comunque mortificare il marito, o il marito che vuole mortificare la moglie, usa tutti gli strumenti a sua disposizione. Salvatore. Eccomi. Sì. Sono qui. Tutto il cinismo di cui si è accennato lo lascio a chi mi ha preceduto. E io racconto la mia vicenda brevemente. Io non ho mai tradito mia moglie, siamo stati insieme 7 anni e non abbiamo avuto una sessualità regolare, motivo per cui lei era andata verosimilmente in una situazione di frigidità ricorrente. Vabbè. Sotto la psicologa. Madame D'Estelle dice: non esistono donne frigide ma uomini incapaci. Si prende anche lei la sua parte. Assolutamente. Il mio errore è probabilmente la presunzione di poter nel tempo risolvere la situazione. Dichiaro la mia disponibilità a un'eventuale terapia di coppia, cosa alla quale non partecipo mai. Nel frattempo operiamo un processo di adozione che si conclude il giorno prima della decisione del giudice, con il ritiro di mia moglie sotto le lacrime, perché evidentemente non si sentiva in condizione di assumersi anche questa responsabilità. E decidiamo in maniera molto serena di arrivare alla separazione. Mi prega, in virtù della salute della mamma, di non evidenziare questo a ridosso delle festività ormai prossime del Natale. Facciamo il Natale serenamente. Esatto, perfetto. E scopro che dal 2 gennaio aveva già organizzato tutto, casa. Allora a quel punto la curiosità, ovviamente, anche perché insomma ero veramente sconvolto da una situazione di questo genere. E allora mi apposto una sera e scopro che praticamente le visite serali erano dettate dalla psicologa. Ah, sarà messa insieme alla psicologa. Esatto. Beh, sua moglie ha scoperto che gli piacciono le donne, l'ha scoperto tardi e ha risolto il problema. E lo so, capita anche quello. Molte mogli scoprono che i mariti piacciono gli uomini, lo scoprono tardi quando trovano l'idraulico nel letto. È successo, fa parte delle case. Però già questa è una cosa più spiegabile, rientra nella norma. Giorgio, poi la riprende in un minuto. In questo momento cosa pensa di fare lei? Ma io mi sto interrogando, sto chiedendo anche a molte persone, non solo avvocati, e quindi sono in vena di consigli. Però mi hanno anche gli avvocati detto che la situazione che si è determinata si avvia a essere stabile, nel senso che dello stipendio non potrò riappropriarmi e quindi sembra una condanna a vita. Beh, io, siccome le condanne a vita non esistono ancora, io suggerirei a Giorgio di darsi malato, si ammali, dica sono matto, vada di testa, sbatta la testa sul muro, vada in giro per strada, insomma, forse soltanto con la follia da una situazione che mi sembra veramente folle si può uscire. Ma il mio naturalmente non è un consiglio, è una maniera per alleggerire qualcosa che in realtà è pesantissima. Alla prossima.